Facciamo un passo indietro. AstraZeneca ha riconosciuto di fronte ai giudici durante una causa in corso nel Regno Unito che il suo vaccino contro il Covid-19 può causare, loro dicono in casi molto rari, un effetto collaterale che è una sindrome da trombosi con trombocitopenia. Questa notizia è diventata pubblica, diffusa dalla Telegraph, che ha parlato di un documento depositato da AstraZeneca presso l'alta corte britannica lo scorso febbraio. Secondo passaggio è che AstraZeneca ha chiesto all'EMA, cioè all'Agenzia Europea per i Medicinali, di revocare l'autorizzazione alla commercializzazione del suo vaccino, e questa revoca è stata accordata a partire dal 7 maggio. Questa revoca potrebbe autorizzare AstraZeneca a non dover più fornire dati sulla sicurezza del proprio vaccino anti-Covid. Questo è quello che è accaduto. L'ultimo passaggio è la notizia che avete dato voi adesso, cioè il ritiro del vaccino. Anche se non viene così spiegato dall'azienda, si può ipotizzare che ci sia un collegamento tra questi tre fatti, cioè l'ammissione di fronte a una corte di effetti collaterali, quale appunto questa sindrome da trombosi con trombocitopenia, la richiesta di ritirare l'autorizzazione alla commercializzazione fatta all'Agenzia Europea per i Farmaci e poi questo ultimo atto. È un po' come dire che AstraZeneca sta lavorando per uscire di scena sulla vicenda del proprio vaccino. Però insomma, da appunto questi elementi che hai giustamente messo in fila, emerge una poca trasparenza che c'è stata appunto soprattutto durante la fase di vaccinazione di massa. Sì. Io direi che il problema è decisamente più ampio e più vasto della vicenda specifica che riguarda AstraZeneca, anche perché continuano forti e diffuse reticenze da parte anche delle altre grandi multinazionali, penso a Moderna e a Pfizer. Qual è il problema? Che l'approvazione dei vaccini è avvenuta con un fast track, cioè con un percorso molto veloce, perché era stata dichiarata lo stato di pandemia e questa dichiarazione modifica i percorsi necessari per arrivare a presentare la documentazione all'EMA e all'FDA negli Stati Uniti ed avere poi l'approvazione. Ma non solo, una volta che i vaccini, questi vaccini come tutti i farmaci, entrano in commercio, qui in Italia noi non abbiamo un controllo pubblico su una ampia corte di persone che sono state vaccinate, che si dovrebbe tenere sotto osservazione nel tempo per vedere quali sono gli effetti collaterali. Qui in Italia e in gran parte d'Europa il tutto è affidato unicamente alle segnalazioni delle singole persone. Ora, siccome il meccanismo di segnalazione è molto complicato da un punto di vista anche burocratico, c'è una forte sottostima degli effetti collaterali. Tant'è vero che quella sorveglianza che è stata fatta invece negli Stati Uniti da alcuni enti dà dei dati molto superiori a quelli che emergono qua in Italia. In più c'è il fatto che una volta che un vaccino o un farmaco è entrato in commercio e quindi ha esaurito le prime tre fasi di sperimentazione, che sono quelle che poi, se superate, portano all'autorizzazione al commercio, scatta una quarta fase dove è affidata proprio e sola all'azienda farmaceutica la sorveglianza nel tempo per vedere gli effetti collaterali e poi consegnare le relazioni a EMA e FDA, che è proprio quella relazione che AstraZeneca non dovrà più consegnare nel momento in cui ha chiesto di cancellare l'autorizzazione. Cioè, in sostanza, detta con parole semplici, non c'è un meccanismo di controllo efficace da parte pubblica, cioè da un soggetto terzo diverso dal produttore, degli effetti collaterali che si possono verificare nel tempo per vaccini e farmaci. Il tutto è lasciato alla segnalazione delle singole persone. Da questo punto di vista io concordo pienamente con quanto più volte ha proposto il professor Garattini, e cioè che sia formata, organizzata una commissione all'interno proprio di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, una commissione indipendente che abbia questo compito su farmaci e vaccini, cioè monitorare gli effetti collaterali nel tempo, e sarebbe anche una forte assunzione di responsabilità da parte dello Stato e degli enti pubblici. Questo per ora non avviene e ovviamente non saranno certo le grandi aziende multinazionali a chiedere questo tipo di controllo. Perché è importante anche in questa situazione conoscere quali sono gli effetti collaterali? Perché solo conoscendo quali sono i rischi si può fare un confronto tra benefici attesi e possibili rischi per le diverse fasce di popolazione, e quindi vedere in relazione alle specifiche fasce di popolazione lì dove un farmaco, un vaccino è bene utilizzarlo, perché anche in presenza di alcuni rischi comunque la bilancia pesa dall'altra parte, e quindi sugli aspetti positivi, e dove invece l'equilibrio tra rischi e benefici non consiglia di non utilizzare quel farmaco o quel vaccino. Ecco, ma per fare queste valutazioni scientifiche bisogna avere questi dati.